Dove stai non lo so, ma ci penso da un po'. Intanto il tempo passa qua, che passi. L'immaginazione è una cosa speciale, le cose da dire le puoi dire se poi le puoi fare. È inutile che parli se poi non seguono i fatti, inutile che sbagli se poi non finisce matti. Se punti la pistola poi spara, oppure lasciala nascosta e impara. Qui fanno a gara a chi ce l'ha più grosso. Io non molesto ma lo appoggio quando posso, e guardo lei che mi strizza l'occhio. Io gli tengo il polso, mosse da rimorchio, e metto in play storiche mi foto. Amo la Golden Age, sono un po' vecchiotto. Dove stai non lo so, ma ci penso da un po'. Intanto il tempo passa qua, che passa. Sono dettagli, sono solo dettagli, piccole esperienze che riempiono i bagagli. Non ti permetti tutti con i sonagli, no non sono serpenti ma piccoli dettagli. E mentre passa un'altra legge di stabilità, la mia vita flette tra le verità e le falsità. Qua non cambia lo stato, la mia rabbia, e quanti struzzi vedo con la testa nella sabbia. Occhi bendati, mi bendo pure io così, magari non vedo lo schifo che passa mio zio. Pensa al tuo futuro, che se non paghi la bolletta finisce che resti al buio. Intanto servo su un vassoio il mio cuore d'argento, che fino a ieri pensavo fosse cemento. Non mi diverto e comunque mi cimento in questa storia del cazzo fino a che faccio centro. Intanto servo su un vassoio il mio cuore d'argento, che fino a ieri pensavo fosse cemento. Non mi diverto, no che non mi diverto da sta storia del cazzo, ma quando me ne esco